Attraverso l'Italia, i Saraceni hanno dato agli europei il risveglio dell'Europa. Attraverso la Spagna, l'ultimo bagliore della loro energia, ha regalato al mondo la scoperta dell'America. Naturalmente, Colombo non ha scoperto l'America. Irlandesi, danesi, norvegesi, baschi e almeno uno spagnolo hanno visto l'America prima di Colombo. Pare che i pescatori bretoni riempissero le loro sacche d'acqua ogni stagione dai fiumi del New England. Una mappa ora a Venezia, disegnata 300 anni prima della nascita di Colombo, mostra Terranova correttamente dove si trova. Generazioni di marinai sapevano che c'era una terra ovest. Per almeno 2 secoli gli europei avevano sentito dire che la terra è rotonda, molti avevano le misure dei saraceni. In longitudine, queste misure mancavano di precisione di circa 8.000 miglia. Colombo dovette sedare un ammutinamento sulle sue navi perché aveva usato queste misure imprecise. Le isole delle Spezie non apparivano dove avrebbero dovuto. Quando vide la terra si trovava all'incirca dove le sue carte nautiche indicavano l'India. Non aveva dubbi sul fatto che si trattasse dell'India e pensò che in qualche modo le isole gli fossero sfuggite. I saraceni non avevano alcuna utilità con queste misure, né alcun motivo per navigare intorno alla terra fino all'India. Erano già in India. I Catai e le isole delle Spezie erano già alle loro porte, ma gli europei avevano bisogno di una via d'accesso all'India e le crociate glielo insegnarono. Le ricchezze del mondo erano in Oriente e i saraceni le avevano. Gli europei erano le nazioni che non avevano e lo sapevano. Per 200 anni i loro marinai hanno costeggiato le coste di questo continente. Per tutto questo tempo i re e i papi sentirono dire che la terra era rotonda e gli studiosi europei avevano le sue misure e le sue carte che mostravano che le terre a ovest erano il favoloso Catai e l'India e le isole delle Spezie, traboccanti di avorio, seta e oro. Allora perché l'energia europea non è balzata al seguito degli irlandesi, dei norvegesi, dei danesi, dei bretoni e dei baschi come quella spagnola è balzata al seguito di Colombo? La natura di qualsiasi energia spiega il suo comportamento. La spiegazione delle azioni o delle mancate azioni degli uomini si trova nella natura stessa dell'energia umana. Gli individui controllano l'energia umana e la controllano in base alla loro visione, vera o falsa, dell'universo. Nell'Europa del XIII secolo, Ruggero Bacone, chiamato il padre della scienza moderna, trascorse gran parte della sua vita in carcere. Perché gli europei credevano che gli uomini non controllassero i propri pensieri. Ruggero Bacone era in realtà libero, naturalmente. Ogni volta che usciva di prigione si metteva in contatto con le università spagnole e prima o poi diceva qualcosa e veniva rimesso in prigione. Controllava i suoi pensieri, controllava i suoi discorsi, i suoi atti, nessun altro poteva farlo. Ma era un uomo tra le moltitudini che credevano che la Chiesa e lo Stato li controllassero. Anche i re e i papi lo credevano. Credevano di essere responsabili delle moltitudini inferiori e facevano del loro meglio per controllarle. Così, ogni volta che un uomo come Ruggero Bacone diceva ciò che pensava, queste autorità usavano il loro vero potere, cioè la forza, per metterlo in una prigione dove solo un carceriere poteva sentirlo parlare e muri di pietra e catene gli impedivano di agire come voleva. Ma i re e i papi, si potrebbe pensare, erano liberi. L'accesso all'India li avrebbe resi enormemente ricchi. Avevano sentito dire che l'India era alla loro portata. Vi chiederete perché non inviarono spedizioni in quella terra di cui i loro marinai avevano visto le coste. Non potevano. Perché la convinzione pagana che l'autorità controlli gli individui non solo impedisce a questi ultimi di agire liberamente, impedisce anche agli uomini che agiscono come autorità di utilizzare le energie dei loro sudditi in modi nuovi. E qui c'è la radice stessa del pensiero del vecchio mondo. La fede in un'autorità di controllo si basa sulla convinzione che nulla viene creato, che tutto è già stato creato. In 6 giorni Dio creò la terra e tutto ciò che è in essa. Poi, credevano gli antichi, la creatività cessò per sempre, non c'è più energia creativa. Il settimo giorno il creatore divenne autorità controllando ciò che era stato creato. L'intera idea di un'autorità che controlla l'universo e l'uomo dipende dal fatto di vedere l'universo come completo, finito, immobile, immutabile. Infatti, se l'universo non è completo e statico, se invece l'energia dinamica sta operando in modo creativo, Allora una cosa impossibile in questo istante esisterà nell'istante successivo. Allora tutte le cose stanno cambiando in cose nuove, senza precedenti. Il domani non può essere conosciuto oggi e nulla di ciò che esiste oggi può controllare il domani. Nessuna mente del vecchio mondo osa ammettere il terribile pensiero che la realtà è energia creativa, che il cambiamento è nella natura stessa delle cose. È vero? Tutti vedono cambiamenti nel mondo visibile. Il seme si trasforma in pianta e fiore, il fiore in seme, ma per i pensatori del vecchio mondo la ghianda e l'albero sono una cosa sola, la quercia. La sua forma visibile cambia, o sembra cambiare, ma la quercia no. Le forme visibili sono illusioni, dicono, la realtà è statica, non c'è alcuna energia creativa che opera. Eppure, questa energia crea sempre cose nuove: albicocche, arance senza semi, calendule senza profumo. Non molto tempo fa in Texas, per nessuna ragione che nessuno possa scoprire o indovinare, un singolo ramo di un albero di pompelmo ha creato una cosa che non era mai esistita prima, il pompelmo rosso. La scoperta del progresso è molto recente. Il Massachusetts aveva più di 100 anni quando, nel 1735, un europeo suggerì la possibilità che il progresso potesse esistere. Nelle taverne di Boston, i giovani radicali sostenevano che il progresso fosse possibile. Il giovane Benjamin Franklin era uno di loro e tutta la Boston rispettabile disapprovava questo pericoloso radicalismo. Per questo motivo Benjamin lasciò casa e andò a Filadelfia per iniziare una carriera dove nessuno sapeva che aveva idee così sovversive. Così, in Europa, i re e i papi, la cui autorità derivava dalla convinzione che l'autorità controllasse un universo immobile, non potevano ammettere che la Terra girasse nello spazio. Se la Terra non poggia su qualcosa di immobile, allora c'è energia. L'intelligenza veramente grande degli europei medievali vide subito che l'energia che opera nell'universo può essere creativa. Se c'è un'energia creativa, se Dio sta creando, allora questo universo non è finito, immutabile, statico, e se non lo è, allora l'autorità non ne ha il controllo. L'intero mondo degli europei poggiava sulla convinzione che l'autorità controlla tutte le cose, compresi gli uomini. Quando sentivano dire che la Terra gira nello spazio, le loro menti e le loro anime si ritraevano inorridite. Per questo motivo odiavano implacabilmente i saraceni, che vedevano come l'anticristo, il diavolo in terra, che si ribellava all'autorità di Dio. I re e i papi non potevano cercare l'Oriente nell'Occidente, il che ammetterebbe che la Terra rotonda gira nello spazio, il che ammetterebbe che il principio dell'universo è l'energia e forse la creatività, il cambiamento, il progresso. Per questo motivo costrinsero Galileo a ritrattare la sua affermazione che la Terra si muove. Ma si muove, mormorò, senza controllo, dopo essersi salvato dal rogo, dichiarando a gran voce che non si muoveva. Quindi nessuno poteva uscire dall'Europa per scoprire l'America. Fu Colombo, un marinaio genovese che conosceva i saraceni in ogni porto, a navigare verso l'India con tanta sicurezza che il re del Portogallo non poté rifiutare le sue condizioni. Tutte le spese pagate in anticipo, una commissione da ammiraglio in anticipo, potere vicereale su tutte le terre raggiunte, per sempre ereditario nella sua famiglia e il 10% di tutti i metalli preziosi mai scoperti in quelle terre, fino alla fine dei tempi. Questo era ciò che Colombo chiedeva e non avrebbe accettato un centesimo di meno. In Spagna, che era stata un grande centro della civiltà saracena per quasi 800 anni, trovò i principi cristiani che accettarono queste condizioni. Fece l'accordo con Isabella e Ferdinando nell'accampamento dell'esercito fuori Granada, dove le loro truppe stavano assediando i saraceni. Quell'estate salpò e quell'estate Granada cadde. Granada, la bella, la grande fonte di apprendimento, scienza, arte e commercio che i saraceni avevano creato per centinaia di anni, era la loro ultima roccaforte in Spagna. 775 anni prima i loro antenati erano entrati in Spagna. In 3 anni avevano conquistato tutta la Spagna fino ai Pirenei. Sulle montagne rimasero solo pochi spagnoli cattolici che non valeva la pena conquistare. Si occupavano un po' della frontiera, come le tribù selvagge al di là del Khyber Pass infastidiscono l'India britannica. Le guardie di frontiera si occupavano di loro, mentre in Spagna i cattolici, gli ebrei, i greci, i berberi, i neri, tutti i popoli chiamati saraceni, costruivano Madrid, Siviglia e Cordoba. Granada, Valencia, tutte le città con le loro biblioteche, le università, gli osservatori, le scuole di architettura e letteratura, i mercati in espansione, i commercianti e gli artigiani e gli artisti in prosperità e in tutto il fertile sud i contadini stavano sviluppando nuovi metodi di agricoltura scientifica che non davano tregua alla terra. A poco, man mano che gli uomini di chiesa diventavano più potenti in Europa, diedero più aiuto ai cattolici nei Pirenei, si fecero strada in Spagna come i crociati erano entrati in Palestina, presero l'Aragona e la Castiglia, ma pur avanzando non riuscirono a stabilire la loro autorità, riuscirono a prendere città e province solo a condizione di lasciarle libere. I cattolici spagnoli, che vivevano nella civiltà dei Saraceni, erano disposti o più che disposti ad accogliere i re cattolici, ma non volevano rinunciare alle loro città libere. Dai deboli invasori chiesero e ottennero Magna Carta, documenti firmati che garantivano le loro libertà. Quando Granada cadde, le truppe saracene si ritirarono in Africa e alle loro calcagna arrivarono le truppe di Isabella e Ferdinando che cacciarono centinaia di migliaia di ebrei, 800.000 secondo alcuni documenti, e non ci sarebbe più stata libertà religiosa in Spagna. Ma in Spagna non c'era ancora nessuna autorità che controllasse il popolo. Le città erano città libere come quelle italiane e la gente era nata e cresciuta nella civiltà saracena. Per secoli i loro antenati avevano vissuto in quella civiltà. La barriera dell'odio tra l'Europa e la Spagna era scomparsa. La Spagna faceva ora parte dell'Europa cattolica, ma gli uomini e le donne viventi in Spagna non erano più europei di quanto i francesi siano oggi tedeschi. La conquista cattolica della Spagna non fece altro che abbattere una barriera e far entrare nella storia europea l'energia umana viva del mondo saraceno. I suoi effetti furono formidabili. Dalla Spagna l'energia ha attraversato l'Atlantico. Nelle centinaia e migliaia di uomini e donne che hanno navigato con Cortés, Pizarro, Ponce de León, Balboa, Magellano, tutti gli esploratori e i conquistadores che hanno messo questo emisfero sulla mappa e hanno fatto il giro della Terra, e nelle migliaia di persone che hanno marciato con De Soto e Coronado dal Golfo dell'Ohio e dal Rio Grande alle cime del Colorado, e che sono arrivati così vicini a incontrarsi in Kansas nel 1545, solo mezzo secolo dopo che Colombo aveva visto un'isola che pensava fosse l'India. Giovani come Hernando de Soto, appena adolescente, che si allontanava da casa da solo su un cavallo magro, con una spada e una lancia e nient'altro che la sua impavida fiducia in se stesso. Centinaia e migliaia di giovani così hanno scoperto l'America. E venivano dalla Spagna, solo dalla Spagna. Gli altri europei non si mossero per altri 100 anni. 3 generazioni di loro non si mossero da dove erano seduti, non sapevano che la terra è rotonda e che la metà favolosamente ricca di essa aspettava di essere esplorata. Un uomo arriva navigando sotto una bandiera inglese, più tardi ecco arrivare suo figlio sotto la stessa bandiera e chi sono? I Cabot, gli italiani, altri 2 uomini come Colombo, provenienti dal centro del Mediterraneo dei Saraceni. Colombo sarebbe potuto arrivare e andarsene senza fare più differenza di Erichir Rosso o Alonso Sanchez, se l'energia umana non fosse balzata dalla Spagna saracena, se migliaia di uomini non avessero preso in mano la propria vita e non l'avessero rischiata sotto la propria responsabilità nell'ignoto. Gli americani scrivono la storia per i bambini americani come se gli scrittori vivessero ancora dei regali di altezze reali lusingate. Re Enrico, il navigatore, che non ha mai terzarolato una vela, scopre una rotta per l'India intorno alla punta dell'Africa. Con un abile stratagemma convince il Papa a concedergli l'intera metà sconosciuta della terra, ma gli spagnoli la stanno esplorando. Il re del Portogallo litiga con il re di Spagna per questo motivo, così il Papa divide il nuovo mondo tra loro. E quel pezzo di pergamena fa sì che gli spagnoli lo esplorino. Figlioli d'America, imparate bene la lezione di storia. Quanto sono potenti le autorità che creano questo mondo umano e i carri che trainano i cavalli. Ecco, 3 fatti storici che nessuno può contestare. 2000 generazioni di spagnoli hanno vissuto in una civiltà in cui ogni uomo poteva agire liberamente. Per un secolo dopo la caduta di Granada, gli spagnoli furono sottomessi al governo di tutti gli altri europei. Durante questo secolo, gli spagnoli esplorarono e conquistarono il nuovo mondo e conquistarono l'Europa. In quel secolo, gli spagnoli attraversarono l'oceano sconosciuto e scoprirono e conquistarono 60 gradi di latitudine, un sesto della circonferenza terrestre. Esplorarono e conquistarono Cuba, le isole caraibiche, l'America centrale, il Messico, il Perù, il Cile, la Nuova Granada, il Venezuela, il Nord America fino al Missouri e al Golden Gate. Hanno conquistato le Filippine, crearono il primo impero mondiale che praticamente circondava la Terra. In Europa gli spagnoli conquistano il Portogallo, i Paesi Bassi e quasi tutta la Francia. Il re di Francia è prigioniero a Madrid. Continuarono le crociate contro gli infedeli e presero le isole Baleari, la Sicilia, la Sardegna, Napoli e Milano. Presero l'Africa settentrionale, presero le Germanie. Al centro dell'Europa il re di Spagna era imperatore di tutte queste terre. A ovest dominava l'Inghilterra, la cui regina era sua nuora. A est le sue truppe incontrarono i turchi a Vienna e li respinsero nei Balcani sconfitti. Questo è l'intero record dell'energia cattolica spagnola. Durò un secolo, tre generazioni. Un secolo dopo, l'energia spagnola non era in grado di procurare cibo sufficiente a mantenere in vita gli spagnoli stessi. Il cambiamento della Spagna alla caduta di Granada fu solo un cambiamento di significato. Non si sarebbe potuto vedere sulla superficie delle cose. Gli emiri saraceni sapevano che gli uomini sono liberi. I governanti cattolici credevano che l'autorità controllasse gli uomini, ma la convenienza fece sì che Isabella e Ferdinando concedessero alcune libertà ai loro sudditi. Un mercante spagnolo che aveva prosperato a Siviglia, per esempio, continuò a prosperare. Tutta l'energia della civiltà saracena che aveva creato quella civiltà fu trasformata dal richiamo di terre sconosciute e dall'autorità dei nuovi re in conquista e guerra. Ma c'era tutto l'equipaggiamento di navi ed eserciti. Gli affari andavano a gonfie vele. Gli uomini d'affari e i lavoratori non videro cambiare nulla. L'emiro sapeva che ogni uomo è autonomo e responsabile dei propri affari. Il re gli concesse il permesso di gestirli, i suoi affari. Un uomo impegnato non vedeva alcuna differenza, dunque. Se qualcuno gli faceva notare questa differenza, senza dubbio rispondeva: Oh, sono teorie, io sono un uomo pratico, non ho tempo da perdere in teorie. Va tutto bene, il mercato delle stoffe non è mai stato migliore di adesso. Circa 2 milioni di musulmani rimasero in Spagna. Le truppe del re li fecero diventare cattolici, perché un cattolico dovrebbe opporsi. Tutti gli uomini dovrebbero essere cattolici, tutti gli uomini di buon senso sono cattolici. Se qualcuno non riesce a vedere la verità, bisogna farglielo capire. Uccidere e torturare è brutto, ma è l'unico modo e il fine giustifica i mezzi. Il fine è buono, è salvare le loro anime. Nessuno potrebbe volere che fossero dannati, torturati, massacrati, bruciati vivi nelle loro case in fiamme o radunati quando fuggivano, i musulmani, i sopravvissuti, diventarono cattolici. Quindi è andata bene. Ma convertiti continuarono a comportarsi come infedeli, tra virgolette, leggendo i loro libri arabi, praticando i loro giochi atletici, indossando le loro vesti di seta e facendo il bagno, sempre facendo il bagno. Chiesa e Stato proibirono queste usanze pagane. La polizia bruciò le biblioteche arabe, perquisì le case dei convertiti alla ricerca di libri arabi da bruciare. Era severamente vietato leggere, scrivere o parlare in arabo. La polizia fermò i giochi musulmani. In ogni città, paese e villaggio i bagni pubblici, i nostri cosiddetti bagni turchi, furono convertiti ad altri usi o rasi al suolo. Ai convertiti fu proibito di fare il bagno di nascosto nelle loro case. Beh, questo non influisce sulla libertà di uno spagnolo che non conosce l'arabo né vuole giocare o fare il bagno, non è così? Sembrava comunque che i convertiti, ora chiamati moriscos, non accettassero di buon grado l'autorità che agiva solo per il loro bene. Si sospettava che facessero il bagno in segreto, c'era il dubbio su cosa pensassero veramente. Per scoprire cosa pensavano, i sacerdoti spagnoli iniziarono l'Inquisizione. Il nome è esatto, si trattava di un'indagine. La Chiesa era responsabile della salvezza dell'individuo e la responsabilità deve essere controllata. Nessuno può essere responsabile di un pensiero, di una parola o di un atto che non controlla. Per controllare le credenze di questi moriscos era necessario sapere quali fossero le loro credenze. La tortura era l'unico mezzo per scoprirlo. Allora non esistevano né la macchina della verità né i test psicologici. La tortura era l'unico modo conosciuto per ridurre la mente di un uomo a uno stato in cui presumibilmente non avrebbe potuto mentire. Recentemente i russi e i tedeschi hanno usato la tortura per questo stesso scopo. L'indagine rivelò un'impronta pagana nelle menti degli spagnoli, che non erano mai stati musulmani. La libertà di pensiero in Spagna era più spaventosa di quanto si potesse sospettare. Tutta la forza dello Stato riuscì a malapena a reprimerla. Il sincero desiderio di fare del bene era l'intero movente dell'Inquisizione. Non è mai vissuto un uomo più gentile di Carlo V in Spagna, imperatore del Sacro Romano Impero che Hitler vuole ora far risorgere, che ordinò di uccidere i suoi sudditi a decine di migliaia. Non era crudele e, dico sul serio, non voleva causare dolore, voleva evitarlo. Gli eretici ostinati che insistevano nel voler essere responsabili delle proprie opinioni dovevano essere bruciati vivi, ma Carlo V ordinò che ognuno di loro che si pentiva e si sottometteva all'autorità doveva essere ucciso misericordiosamente. Non dubitava di essere responsabile della salvezza dei suoi sudditi, doveva eliminare coloro le cui menti erano corrotte, proprio come un contadino deve uccidere una mucca tubercolotica per la salute delle altre. Alla fine del primo secolo di Spagna, i capi dell'Inquisizione disperavano di poter salvare i Moriscos. Dio solo sapeva cosa credevano veramente questi figli e nipoti dell'Anticristo, e più di 1 milione di loro si trovava ancora in Spagna. Alcuni ecclesiastici consigliarono al re di deportarli, altri esortarono a un massacro, pregando il re di agire non solo per il bene della Spagna, ma per il bene del mondo intero. All'obiezione che poteva esserci un Morisco veramente cristiano, risposero che ucciderlo non avrebbe potuto nuocere, poiché Dio conosce i suoi e li avrebbe portati in paradiso. Espellere questi figli del diavolo avrebbe disperso l'infezione, non l'avrebbe fatta cessare. Ma persero l'argomento. I Moriscos furono semplicemente cacciati dalle loro case e ammassati verso la costa. Morti di fame, di sete, derubati, picchiati e uccisi lungo la strada, pochi di loro sopravvissero per raggiungere i deserti africani. Non ne rimase vivo nemmeno uno in Spagna. Tutti gli intellettuali spagnoli scoppiarono in un grande canto di gioia e di speranza. Ora sì che la Spagna era pulita. Ora ogni spagnolo era completamente obbediente alla Chiesa e al re. Sola tra tutti i paesi europei, la Spagna era ora una massa unita di uomini leali che credevano e agivano come un unico essere. Tutti i pensatori e i poeti spagnoli celebrarono in libri e canzoni questo evento glorioso, questo tempo benedetto, l'alba dell'età dell'oro della Spagna. E invece fu la fine della Spagna. La perdita di 1 milione di Moriscos non era così importante. Miliardi di persone erano morte in Spagna durante quei 9 secoli di vigorosa energia umana. Milioni di persone vivevano ancora in Spagna, ma era vero, non era rimasto quasi nessuno che sapesse che gli uomini sono liberi. Di 3 generazioni di spagnoli, i più autonomi erano andati nel Nuovo Mondo e nelle guerre. Ora i Moriscos, con i loro pensieri segreti, se n'erano andati. Gli spagnoli erano davvero uniti da una convinzione comune, quella che l'autorità li controllasse e ne fosse responsabile, e l'energia umana in Spagna cessò semplicemente di funzionare. La perdita di 1 milione di lavoratori fu uno shock economico, ma le guerre hanno causato shock economici, così come la caduta di Granada, la cacciata di centinaia di migliaia di ebrei è stato uno shock economico proprio all'inizio di questo vigoroso secolo. In Spagna c'era ancora molta energia per coltivare i campi, lavorare i telai e far prosperare il commercio, ma l'energia umana è un'energia individuale, controllata in base alle convinzioni dei singoli. Grandi estensioni delle fertili terre dei Moriscos, allora spopolate, non sono mai più state arate. Quando gli spagnoli avevano fame, accorrevano nelle città, dalla chiesa, dal re che doveva sfamarli, come se i pescatori venissero in città a cercare il pesce. Nella storia succede sempre così. Sempre quando le persone cercano nell'autorità ciò che solo la loro energia può creare, si riversano nelle città dove la loro energia non può produrre nulla. Nei secoli del declino di Roma, i romani facevano così. Negli ultimi 10 anni, alcuni milioni di americani lo hanno fatto. Negli ultimi 20 anni, i contadini russi affamati si sono affollati nelle città per mangiare. 30 anni dopo, che l'ultima conoscenza della libertà era sparita dalla Spagna, il governo non riusciva a ottenere nemmeno una goccia di tasse dalle province che un tempo avevano riempito i forzieri del tesoro reale fino a farlo traboccare e avevano equipaggiato tutte le navi e le migliaia di uomini che salpavano per il nuovo mondo. A Siviglia, dove avevano lavorato 2000 telai, se ne muovevano appena 300. Tutto il mondo civilizzato aveva comprato guanti spagnoli e ora la Spagna non produceva più guanti. I viaggiatori riferiscono che i monasteri si stavano ingrandendo e moltiplicando ovunque, le proprietà affluivano alla chiesa, orde di sacerdoti affollavano le strade, i villaggi stavano diminuendo, i campi erano scarsamente coltivati, la gente era affamata. Gli scrittori protestanti affermano che la chiesa stava divorando la Spagna. Ma la chiesa non sequestra nessuna proprietà. La Chiesa non costringe nessuno a lasciare i campi o il mercato, nessuno è mai stato costretto a entrare in un monastero o nel sacerdozio. Nella Chiesa c'è sicurezza per la mente, l'anima e il corpo. Gli spagnoli volevano sicurezza, la sicurezza che i bambini hanno diritto di aspettarsi da un'autorità a cui obbediscono. La popolazione di Madrid diminuì da mezzo milione a 200.000 abitanti. A metà del secondo secolo di Spagna, quei 200.000 stavano morendo di fame e il governatore di Castiglia, con truppe armate e boia, stavano setacciando le campagne e sequestrando cibo ai contadini per sfamare Madrid. Perché non lo comprò? Non poteva riscuotere più tasse? Gli esattori delle tasse demolivano le case e vendevano i materiali per qualsiasi cosa potessero ottenere da applicare alle tasse dei proprietari. In alcune città demolirono più di 2/3 delle case e dove avrebbero preso le tasse l'anno successivo? I villaggi erano completamente deserti. Gli abitanti dei villaggi vagavano in gruppi in cerca di cibo, morivano ai bordi delle strade in tutta la Spagna. Il re tagliò gli stipendi dei funzionari, anche dei più alti nobili, anche della casa reale, e li tagliò ancora di 2/3 e non riuscì a pagarli. I soldati non pagati lasciarono le frontiere sguarnite e devastarono il paese in cerca di cibo. Per quasi 800 anni l'energia umana in Spagna aveva prodotto una tale abbondanza di cibo, comodità e lussi che il mondo non aveva nemmeno mai immaginato. Dopo la caduta di Granada, l'energia umana continuò a operare in Spagna attraverso la Spagna sul Nuovo Mondo e sull'Europa per oltre 2 generazioni. La terza generazione non sapeva più che gli uomini sono liberi e l'energia si indebolì in Spagna. La quinta generazione non poté più sostenere il governo e i loro figli morirono di fame. Nel 1699 il ministro britannico presso la corte spagnola non poteva comprare il pane a Madrid. Come tutti gli altri, doveva chiedere il pane al governo. Il corregidor gli diede un ordine per il pane ed egli fu obbligato a mandare uomini vistosamente armati di pistole lunghe a 2 leghe dalla città per prendere il pane e riportarlo indietro, perché solo uomini armati potevano proteggere il pane nelle strade della capitale della Spagna. Quel giorno arrivarono a Madrid 20.000 contadini affamati, provenienti dalle campagne dove gli aratri marcivano nei campi infestati. Da quel momento gli stranieri governarono il popolo spagnolo. I primi ministri della Spagna erano francesi, italiani, austriaci. I soldati irlandesi sostenevano la monarchia spagnola. Gli ambasciatori della Spagna non erano spagnoli. Quando i francesi stavano perdendo la guerra che gli americani conoscono come guerra franco-indiana, la Francia passò la Louisiana alla Spagna per non perderla alla conferenza di pace. Il Lord High Admiral di Spagna, che navigò nel lago Pontchartrain per prendere possesso di questo continente a ovest del Mississippi per la corona spagnola e che sedò la ribellione di New Orleans impiccando 19 uomini di spicco al suo pennone, era l'ammiraglio O'Reilly, irlandese. La Spagna aveva praticamente cessato di esistere.